calo netto degli attualmente positivi, giù di 1500 unità, saluta il secondo giorno di uscita dal cosiddetto lockdown. Restano 236 vittime ieri, ma si guarda con una certa fiducia ai prossimi giorni. Forse un po' troppa gente in giro, dicono tutti, forse qualche assembramento di troppo, e le autorità richiamano alla massima cautela. Certo, le famose mascherine a 50 centesimi non si trovano, i test sierologici non sono partiti, i medici di base lamentano che questa fase 2 è partita senza adeguamento sul territorio, ma tant'è. L'attenzione è puntata sull'economia, nella quale domina la scena la decisione della Corte Costituzionale tedesca sulla BCE, e in Italia l'attesa di un decreto, quello di aprile ormai spostato a maggio inoltrato, che è al centro di uno scontro politico all'interno della maggioranza. Fibrillazioni che non sono limitate a questo, ma comprendono anche l'ipotesi di sanatoria per i migranti, Italia Viva a favore, 5 Stelle contrari, e la situazione del ministro Bonafede dopo le accuse del PM Nino Di Matteo, mentre si apprende che sono stati 376 i boss scarcerati e messi ai domiciliari in questo mese e mezzo. Forse qualcuno ne dovrà rispondere. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ghost Town, come cantano gli Stones, però la canzone ci piace tanto e quindi per il momento ce la teniamo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia, eccoci, è mercoledì 6 maggio, sono le 6:31 minuti e 30 secondi per questa puntata di 24 Mattino che ha i componenti della sua task force in Carmelo Lauricella, Anita Panizza, Giorgio De Luca e poi Alessandro Marco Tulli e Gloria Guerrera in redazione, Margherita Nina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ci siamo anche stamattina e come sempre. Dove la vera task force siete voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, fatemele sentire. Su tutto quello che volete, dalla situazione economica, i soldi, 600 euro, la cassa integrazione, vi sono arrivati, non vi sono arrivati, l'avete chiesto il prestito da 25.000, ve l'hanno dato o non ve l'hanno dato, come siete, incagliati come molti oppure no? Cosa vi aspettate da questa fase 2? Oh, iniziamo un po' più leggeri stamattina con... innanzitutto con una voce che abbiamo sentito già ieri, era ospite nostro, il vice ministro all'interno, Matteo Mauri, il quale ci ha detto questo sulle situazioni di confine. Lo sapete, ci sono un sacco di posti di confine tra regione e regione che, lo abbiamo detto spesso, fanno sostanzialmente parte dello stesso territorio, no? E se la mia fidanzata abita nel paese accanto, cosa faccio? Mauri. Bisogna stare sempre all'interno della stessa regione. Poi mi rendo conto che chi è fidanzato a un chilometro, che però è non solo in un'altra provincia ma in un'altra regione, come dire, è complicata. Però dobbiamo essere rigorosi su questa cosa, e stabilire poi delle eccezioni diventa complicato, per cui è meglio avere regole chiare in modo da non confondere nessuno. Quindi niente, se ti beccano a passare il confine. Tanto che un signore di nome Francesco Piacentini ha deciso di festeggiare il compleanno, se ho capito bene, sia suo che della madre, al confine, perché la madre vive in Trentino, lui in Veneto, e dunque si ritrovano al confine, non attraversano il confine e si parlano da quella distanza. Allora, dato che non si può stare vicini fra Veneto e Trentino, ho deciso con la mia mamma che abita in Trentino di festeggiare il compleanno qui, esattamente al confine. Abbiamo apparecchiato a un metro uno dall'altro e dato che compivo gli anni e la mamma non è potuta starmi vicino, adesso facciamo un brindisi. La candela è andata, ma comunque facciamo anche un brindisi alla nostra. Ciao mamma, auguri. Auguri amore. Ma sarà il confine proprio preciso o un occhiuto drone della polizia verificherà che non sia stato oltrepassato nemmeno di 5 centimetri? Chissà, chissà. E va bene, va bene. Il tema è questo, che dice il virologo Pregliasco, vedo troppa euforia in giro. A me sembra un pochino che erano un po' troppi le persone in giro, perché si era detto che in teoria non si dovevano fare capannelli. È chiaro che viene un po' naturale e davvero il rischio è un po' questo effetto euforia, no? che Gianni Rezza evidenzia, e lì in quella piazza mi sembra che c'era un po' troppa gente che si tratteneva e che in qualche modo non si differenziava. Rico, si ricomincia con le foto, le immagini, le riprese dei vicini, chi si assembra, chi non si assembra. E i bambini, come facciamo a non farli assembrare se si incontrano? Altro virologo, Lopalco. Il problema dei bambini è serio, perché non possiamo impedire ai bambini di non avere una socialità. Quindi un'indicazione di buonsenso potrebbe essere quello, in questo periodo, di creare dei gruppi stabili di bambini che giocano sempre fra di loro. 3, 4, 5 bambini che si incontrano e giocano fra di loro. Affetti stabili anche tra i bambini, dunque. Rezza, sentiamo. Ci vuole un cambio di passo in fase 2. Il Veneto ha fatto molto bene anche in fase 1, continua a farlo, molti tamponi, una strategia aggressiva sul territorio, l'ha fatto così tutte le regioni italiane. Io penso che i tamponi vadano fatti sia sintomatici che i contatti dei casi, anche se asintomatici, quindi in fase 2 io credo che debba cambiare strategia, anche la Lombardia credo si debba adeguare guardando a quello che è riuscito a fare il Veneto. Veneto, il controllo del territorio è molto molto importante. E poi la questione della strategia sanitaria. Allora, la vicenda della app, la famosa app Immuni. Guardate, lo abbiamo detto più di una volta, non esiste quello che gli esperti chiamano un silver bullet, cioè un proiettile d'argento, è qualcosa di tecnologico che funzioni effettivamente se non c'è un altro tipo di strategia. Dunque, ne abbiamo parlato all'infinito, ma il commissario Arcuri ieri ha confermato e ha detto: ragazzi, se non si fanno tamponi in maniera estensiva, questa app ha poco senso. Sono il primo a dire che chiunque di voi pensa che nel momento in cui un cittadino è stato un contatto stretto e l'app ha aiutato tutti noi a intercettarlo, rintracciarlo, riconoscerlo prima di quanto accade oggi attraverso l'intervista, non si fa subito un tampone, l'app non ha conseguito il risultato per cui è stata pensata. Però, dice Lopalco, ci vogliono delle linee guida nazionali. È diventato una sorta di, magari anche argomento di propaganda, io faccio più tamponi di te, io sono più bravo di te. Non è così, è importantissimo che a livello nazionale arrivi una linea guida precisa. Quando bisogna farlo, a chi bisogna farlo, con che tempi bisogna farlo e quale deve essere uno standard minimo di, per esempio, numero di laboratori abilitati a fare i tamponi in un ambito regionale sulla base della popolazione. Ecco, se si facesse questo, sicuramente sarebbe molto più facile lavorare anche per noi nelle regioni. Tutto un polemicone sulle cure, visto che in ambito sanitario siamo, e il tema è quello della cura al plasma che viene sperimentata in queste ore a Mantova, in queste settimane, a Mantova e Pavia. Salvini, nessuno ne parla. stanno curando i malati di virus con il plasma donato da altri malati che sono guariti. Una cura che funziona. Io ringrazio ad esempio il professor De Donno dell'ospedale primario, dell'ospedale di Mantova, perché a livello di governo non se ne parla. Il professor De Donno ha denunciato in un'intervista: il governo non ci chiede nulla, l'Istituto Superiore della Sanità se ne disinteressa. Allora, in realtà innanzitutto se ne parla della cura al plasma, ne abbiamo parlato da qua, come ha raccontato il professor Enrico Bucci, che si sta occupando un po' di smentire tutta una serie di cose che circolano. Ne ha parlato il TG1 Mattino 5, Studio Aperto, Rete 4, Agorà, di nuovo Rete 4, Porta a Porta, ce ne siamo occupati qua. Ieri è stato ospite De Donno di Alessandro Milan, ieri mattina, quindi insomma se ne parla, prima cosa. Seconda cosa, guardate, non è così facile, andatevi a leggere un po' di documentazione su questa questione delle cure al plasma. Devi trovare il donatore che innanzitutto che sia compatibile, perché vale come per le donazioni del sangue, cioè non è che se hai il gruppo A puoi ricevere da tutti, insomma, per intenderci. Il plasma può essere donato solo una volta ogni tanto, non sai effettivamente, non tutti sono possono donare, eccetera eccetera. Cioè non è, anche qua non è il silver bullet, è un elemento interessante, una possibilità di cura, perché poi su questa vicenda, ripeto, anche politicamente si fanno varie speculazioni. Agnese Pini, direttrice della Razione. Ciao Agnese, buongiorno, come stai? Buongiorno a voi. Sei andata a fare una passeggiata o una corsetta negli scorsi due giorni, o sei rimasta sbarrata? Lunedì sono tornata in centro a Firenze per la prima volta dopo appunto il lockdown. E devo dire, è stata una grande emozione, e ho sentito anche una grande emozione, no? Poi sentivo poco fa i virologi, appunto, che giustamente facevano appelli contro gli assembramenti e la troppa vivacità o il troppo entusiasmo, però devo dire che forse sarà il sole o forse sarà la voglia di tutti di poter provare a riassaporare un po' di normalità, ma tenere a freno l'entusiasmo è quasi disumano, no? Sì, è difficile. In questo momento, perché la voglia di ripartire è anche tutta la paura legata alla ripartenza economica e sanitaria, però prevale la voglia di ricominciare ad avere una routine vagamente normale, appunto, poter uscire e farsi un giro nella propria città finalmente. L'autocertificazione in tasca fa la differenza. Sicuramente. Ascolta Agnese, torna un po' alla routine anche la politica, mi pare. In queste ore abbiamo visto tra Bonafede sicuramente sotto attacco, le tensioni sul decreto economico, le tensioni in merito alla regolarizzazione dei migranti, mi sembra anche qua ci si assesta, si torna a parlare di voto, perché ritornano in retroscena sui giornali che ci dicono che Mattarella, in caso di crisi di governo, porterebbe tutti al voto a settembre, quindi no, mi sembra che anche qua si rientri quasi in fase 3 forse. Ma è finita la fase maggiormente emergenziale in cui eravamo tutti silenziati perché prevalevano comprensibilmente altre priorità, sono riemerse tutte le debolezze della politica e della maggioranza in particolare, così come sono emerse in maniera ancora più forte inevitabilmente tutte le debolezze del paese, appunto dal nodo della regolarizzazione dei lavoratori alla crisi economica e imprenditoriale, e chiaramente in una fase di emergenza, una fase straordinaria, quelli che erano i nostri punti deboli già prima e adesso emergono in maniera diciamo ancora più lampante e più grave. E la stessa cosa succede all'interno della politica, la maggioranza sfilacciata tra le varie anime di quella che compone la coalizione di governo sono, se possibile, ancora più forti le differenze rispetto a prima. Abbiamo visto anche la settimana scorsa nelle varie dichiarazioni in aula con un Renzi particolarmente scatenato. Sì, pare anche a me. Come non eravamo più abituati a sentirlo almeno da un paio di mesi. Quindi questo ci ha riportato indietro nel tempo di una sessantina di giorni, ricordandoci che al di là di tutti i nostri buoni propositi, parlo nostri di giornalisti ma anche di politici, sul fatto che nulla sarebbe stato più lo stesso dopo, che avremmo trovato una grande... Ma guarda, io in realtà sono abbastanza convinto che sì, è una grande cesura nelle nostre esistenze, sicuramente sarà un ricordo che ci porteremo appresso, dietro per tutta la vita, è chiaro, insomma, no? Poi tutti cambieremo, questa cosa ha un impatto sulle nostre vite, sulle vite di tutti quelli che hanno perso il lavoro, che lo perderanno, sulla situazione economica, sulla situazione sanitaria, chi ha perso una persona cara, questo sicuramente, però insomma poi alla fine torneremo ad una vita semi normale e la politica lo sta già, cioè si sta già adeguando in anticipo. Poi sì, è già arrivato a un livello di altissima normalità, parlo purtroppo in senso negativo, e la cosa secondo me più preoccupante, mi riallaccio sempre alla questione sanitaria che accennavate all'inizio della trasmissione, l'assenza di una strategia unitaria pianificata a livello nazionale su tutta la questione della fase 2 sanitaria, quindi la tracciabilità ai tamponi, una omogeneità sul piano nazionale su come intervenire, questo sì può diventare davvero, avere dei risvolti drammatici, se mai poi i livelli del contagio dovessero, speriamo di no, ma ricominciare a salire anche nel prossimo autunno, eccetera. Perché lasciare alle regioni autonomia e anche fuga in avanti o un po' di presenzialismo, di protagonismo a volte inutile, come abbiamo visto sì, nelle ultime settimane, nella gestione però di cose, voglio dire, più banali della questione sanitaria, sì, rischia di diventare molto pericoloso. Quindi da questo punto di vista fanno bene esperti e virologi a riportare il governo a dire, ai propri occhio, doveri minimi. Occhio ragazzi, sì, tenerli là. Voglio solo rispondere molto rapidamente a un ascoltatore sul tema del plasma, che vedo che sta scatenando un po' di ascoltatori, se vogliamo anche per ovvie questioni politiche, perché poi quando un politico si interessa di una cosa, ovviamente, e lo fa in modo polemico come ha fatto Salvini, ovviamente diventa, no, una... Oltretutto poi stanno girando tutta una serie di messaggi su WhatsApp su questo tema. Guardate che non è una questione di Radio 24, la radio di Confindustria che supporta le industrie farmaceutiche. Le industrie farmaceutiche si occupano di cure con il plasma da tempo immemore e ci sono delle case farmaceutiche che si stanno occupando esattamente di cure con il plasma per Covid-19, cioè sono coinvolte direttamente anche nelle sperimentazioni. Quindi anche questa storia che gli ospedali possono fare da soli senza le case farmaceutiche è un po' una storia così, insomma, è una di quelle cose che girano su WhatsApp, alle quali vi raccomandiamo sempre di fare la massima attenzione. Traffico. Quattro mattino. Poi c'è tutta la questione economica, questo decreto aprile che poi sta arrivando a maggio inoltrato, nel quale finalmente dovrebbero essere previsti dei soldi a fondo perduto per alcune aziende, che però sta frenando un po' tutto. La questione della Banca Centrale Europea, ieri la sentenza della Corte tedesca che ha deciso che la BCE dovrà dimostrare che il programma di acquisto di titoli pubblici, di titoli di Stato, non è uno strumento di politica economica. È un po' complesso come ragionamento, ma certo un brutto colpo potenziale per la BCE. Sulla manovra di maggio a questo punto, Di Maio. Stiamo per varare un altro decreto da circa 50 miliardi di euro. Sono manovre finanziarie imponenti che non sono mai state fatte nella nostra storia. Lo vedremo naturalmente, lo vedremo. Voglio salutare, stamattina raccontiamo una piccola storia. Mi è arrivata una critica da un'ascoltatrice ieri che ha mandato un'email e dice, insomma, basta Spezia con questa storia, con queste critiche al governo perché in Germania danno il denaro, no? Hanno dato il denaro di fatto direttamente sui conti correnti senza dover passare dalle banche. E però, insomma, il nostro ruolo alla fine è anche questo, cioè anche di star qua e guardare cosa funziona e cosa non funziona. Non è tanto avercela con il governo, cioè in passato ci avete anche accusato di avercela con la Regione Lombardia. Stamattina ovviamente arriveranno mail di insulti per aver parlato di Salvini che parla della cura con il plasma. E così è, insomma. Facciamo un po' attenzione alle cose e muoviamo critiche dove lo riteniamo opportuno. Abbiamo semplicemente detto che in questa fase sarebbe stato opportuno per una serie di aziende italiane, soprattutto le medio-piccole, soprattutto le piccole, quelle che faticano di più a resistere, quelle che soffrono di più questi effetti del lockdown, insomma, fare un'iniezione di denaro che non passasse dai canali burocratici e dai canali bancari, ma fosse un po' semplificata. Mi sembra una banalità, però magari non è una banalità. Massimo Chiti è titolare della Rusticheria, scritto con la K, perché è una bottega toscana a Monaco di Baviera. Chiti, buongiorno e benvenuto. Eccoci qua. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Oggi tutta Toscana. Oggi è tra Agnese Pini e Massimo Chiti. Allora, Chiti, come sono andate le cose là in Germania? Niente, ormai siamo chiusi da ben 4-5 settimane e niente. Facciamo da asporto e sì. Sopravviviamo, via, diciamo. Sopravvivete. Anche qua è già è molto dura andare avanti e sinceramente, fortunatamente o così, possiamo dire un pochino diverso rispetto all'Italia, da quanto sento a colleghi gastronomi o comunque del settore, perché hanno, diciamo, dopo poco siamo riusciti a ottenere un soforti, un aiuto immediato da parte della regione Baviera e ora stiamo attendendo un altro piccolo aiuto dalla statale. Quanto sgancia, dico brutale Chiti, quanto sgancia il governo tedesco e quanto la regione? Allora, al momento è arrivato un... dopo aver riempito tutti i moduli così online e tutto, sono arrivati 5.000 euro come support ILF dalla regione Baviera e ora stiamo attendendo 4.000 euro dovrebbero essere dallo Stato generale bavarese. Dallo Stato nazionale. Quindi 9.000 euro, esatto. Complessivamente. 9.000 euro. Dipende, tutto questo, sì, prego. Così, tutto questo dipende dalla tua grandezza di come azienda, come ditta, fino a, mi sembra, va in base ai dipendenti, fino a 5 dipendenti se ricevi queste somme qui, poi più dipendenti, più grande sei, aumentano naturalmente gli aiuti. Ed è denaro, sì, a fondo perduto, Chiti, non sono soldi, sì, che dovete restituire. Sì, sì. Questo no. Sono soldi che arrivano direttamente. Certamente, lo dico... Sì. Sì, poi sicuramente ci saranno dei controlli più avanti quando la situazione sarà un po' calmata, così hanno detto, però al momento sono arrivati direttamente, sì, sul conto. Sì. Oh, certamente, lo dico agli ascoltatori, ne abbiamo parlato ieri perché abbiamo avuto ospite alle 8.30 l'ex ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ovviamente la situazione di finanza pubblica della Germania è completamente diversa e quindi un'operazione di questo genere per i tedeschi è oggettivamente più facile, proprio per le condizioni di finanza pubblica, cioè il debito pubblico che hanno, che è molto più basso, la capacità di spesa che hanno, e questo è evidente. Le procedure, Chiti, come sono state? Niente, alla fine quando ci hanno chiuso, diciamo, hanno attivato un sito online dove te potevi registrarti e chiedere immediatamente questo supporto. Noi sinceramente siamo stati anche fortunati perché, essendoci mossi il giorno stesso, siamo stati più rapidi nel ricevere soldi, mentre conosco anche qui a Monaco altri colleghi di ristoranti o comunque nel settore gastronomia che anche al momento non hanno ancora ricevuto i primi 5.000. Quindi la famosa efficienza tedesca non è così completamente efficiente. Esatto, o almeno non sono al 100% ancora riusciti a coprire questa situazione. Quindi semplicemente un sito internet... Si entra, esatto. Si dice io sono tal dei tali con, non lo so, un numero di partita IVA o cose di questo genere, immagino, no? Tutti i dati dell'azienda e quello che fai, quello che non fai, quello che c'hai, quello che non c'hai e niente. Poi dopo il tempo di aspettare, se sono per noi, in nostro modo personalmente, sono attivati molto velocemente. Molto velocemente. Allora, sì. cara Agnese Pini, qua veniamo un po' al grande snodo di questa fase 2. Insieme alla fase sanitaria, che, della quale parlavamo prima, c'è la fase 2 economica, ed è la situazione di aziende come quella di Massimo Chiti, però riportate all'Italia, che... Sì. No, si trovano in questa situazione, senza liquidità, con praticamente nell'impossibilità di riaprire, o quasi, o riaprendo, no, con un quarto, un decimo del fatturato, o col fatturato azzerato come in alcuni casi, e insomma una condizione economica sulla quale evidentemente il governo dovrà intervenire. Non so, ascoltavo le parole di Chiti poco fa e sono, voglio dire, fantascienza, no? Sarebbero qui da noi, oltre il desiderato e lo sperato. La verità è che c'è, e qui in questo caso davvero, stata molta assenza della politica nel pensare, rispetto al rilancio economico, al fatto che l'Italia è al 90% un paese fatto da imprese piccole o piccolissime, familiare, conduzione familiare di 2, 3, 4 dipendenti, e che si trovano in questa fase senza una rete, un paracadute reale, affidabile, anche di prospettiva, anche che lasci la possibilità di farsi due conti, per dirla brutalmente, da qui al prossimo mese, cioè il prossimo mese di chiusura, e poi ai prossimi 2, 3, 4 mesi, perché gran parte delle attività di cui parliamo, quindi dalla ristorazione al piccolo negozio al dettaglio, non avranno poi, anche quando e se riapriremo del tutto, la possibilità di ricominciare a guadagnare quanto guadagnavano prima della crisi. Quindi, non so, per esempio in Toscana si parla del rischio di una chiusura al 70% su alcuni tipi di attività che qui costituiscono proprio il tessuto economico di base della regione, quindi dall'export al turismo. E questa assenza totale di paracaduti sta creando anche un inevitabile grandissimo malcontento a livello sociale, per cui questa rete di piccoli o minuscoli imprenditori non si riconosce più e non si affida più non solo alla politica, questo era già un sentimento ben diffuso prima, ma anche a tutti quei livelli di potere intermedio, no? Dai sindacati alle associazioni di categoria. C'è un fuggi-fuggi, un malcontento generale che aumenta appunto anche inevitabilmente in un momento così di così grande incertezza, di così grande crisi, la tensione sociale. E questo senso di spaesamento e di incertezza che si respira ancora una volta da Roma, dal nostro governo, ma appunto quando poi si è in un momento di crisi esce fuori il meglio e il peggio della politica e della nostra condizione economica. L'Italia era già in un momento di grande crisi, no? Da tempo, era una situazione nostra completamente diversa da quella tedesca, e tutti quelli che erano i nostri punti deboli di prima, appunto le tante aziende che già sopravvivevano con difficoltà, un po' malamente, no? Con difficoltà, tutto questo sistema, che però non era in minoranza nel sistema paese nostro, adesso rischia di andare completamente a sfilacciarsi e a distruggersi, con tutte le conseguenze. E insisto sul tema sociale, perché lo si respira moltissimo, cioè non solo economiche, ma proprio di tenuta sociale. Sì, è questione aperta. Qualcuno dice: ma che senso ha aiutare le aziende con contributi a fondo perduto? Serve ad aiutarle a non chiudere in una fase nella quale devono sbarrare, devono chiudere completamente i battenti. Detto che, come avete sentito, in questo tutto questo malinteso nostro federalismo, qua i primi soldi sono arrivati dalla regione Baviera, non dallo Stato, quindi non è solamente il governo, qua forse anche le regioni una manina potevano mettercela. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Grazie Massimo Chiti, grazie Agnese Pini, alla prossima.